ragazzi scoprono in questo momento che invece non è affatto così. Se voi avete visto le immagini televisive abbastanza dure, ma non voglio soffermarmi con quelle più dure, con tutta la problematica drammatica che peraltro a Roma si ripresenterà domani, eccetera, la contestazione della settimana scorsa, peraltro mi riferisco dei giovani, avete visto che tra gli striscioni e i cartelloni che più vistosamente attraversavano la piazza era proprio quelli che erano particolarmente visibili, proprio quelli che facevano riferimento al futuro, in cui questi ragazzi dicevano sostanzialmente questo: ci avete rubato il nostro futuro, ridateci il nostro futuro. Un'esperienza educativa che in qualche modo ha reso facile l'accesso ad alcune cose, sottraendo la fatica del crescere e ridistribuendo questa fatica del crescere sempre nella generazione degli adulti, ha sottratto a questi ragazzi non il futuro, ma la capacità di assumere in prima persona il loro futuro. Vi faccio un esempio tipico perché siamo in una scuola, quindi è abbastanza facile e comprensibile questo esempio. Per molto tempo c'è stata una alleanza naturale tra genitori e insegnanti. C'è stata un'alleanza naturale per cui i genitori erano senz'altro consapevoli, diciamo, direi quasi statisticamente parlando, che gli insegnanti non potevano essere sempre capaci di individuare la risposta migliore, la soluzione migliore per tutto, ma facevano propria la convinzione che era più utile per la crescita del figlio un livello di esigenza e una capacità di sfidare se stesso che non un atteggiamento, chiamiamolo così, iperprotezionistico, che di fatto gli avrebbe tolto l'opportunità di farsi le unghie come i gatti quando si devono fare le unghie, l'opportunità di crescere scontrandosi con qualcosa. D'altra parte anche gli insegnanti erano totalmente consapevoli che i genitori non fossero perfetti, non c'è mai stata questa sorta di ottusa luna di miele per cui i genitori pensassero che gli insegnanti erano perfetti o gli insegnanti pensassero che i genitori erano perfetti, ma c'era una convinzione che per il bene dei figli l'alleanza tra genitori e insegnanti significasse offrire a quei ragazzi un'opportunità per misurarsi con le difficoltà, per dimostrare di che cosa erano capaci, per venire fuori con quella che poteva essere una messa in gioco di talenti e di capacità. Voi sapete tutti che oggi non è più così, addirittura ci sono molti testi, più ironici, più divertenti, delle analisi sociologiche più acute, però si dice che ormai i genitori sono diventati il sindacato dei figli. Per cui qualunque cosa succede, il genitore interviene presso l'insegnante non per risolvere il problema del figlio, ma per rimuovere l'ostacolo con cui il figlio si deve misurare. Non sei riuscito a fare i compiti? Ci possono essere delle ragioni assolutamente plausibili, per cui ce ne sono. Però il problema diventa a questo punto che l'insegnante non doveva nemmeno dargli quei compiti. Doveva assolutamente pensare che lui non sarebbe riuscito a superare quelle difficoltà e quindi non doveva esporlo a questa sorta di umiliazione che eventualmente lo fa sentire a disagio. La maggioranza di voi che siete qui dentro abbiamo vissuto, io sono un po' più vecchia della maggioranza di voi, però abbiamo vissuto quella sensazione di angoscia e di soddisfazione, la ricorderete tutti, che era quella di andare a vedere i quadri. Andiamo a vedere i quadri e nei quadri quasi sempre ci avvicinavamo molto alla realtà nostra e dei nostri compagni. Dopodiché abbiamo vissuto l'idea che perché rendere pubblica una valutazione che è personale? Sembrava quasi che il garante della privacy dovesse intervenire per dire perché la valutazione di questo ragazzo deve essere una valutazione nota a tutti gli altri? Perché esporlo al rischio di una valutazione comparativa? Ricorderete anche tutti, perché è stata una dialettica delle ultime legislature, quando siamo passati dai voti delle pagelle dell'elementare ai giudizi, dal tema sui giudizi, abbastanza spesso logorroici, articolati, scusi, ma quando i genitori venivano e dicevano: scusi, ma questo quanto vale? Fino a che poi qualcuno ha detto: scusa, perché non torniamo ai voti? Sempre con l'idea che il ragazzo non ci debba rimanere male. Cioè abbiamo, in altri termini, attenzione, che ci fossero insegnanti che in alcuni casi sbagliavano. Lei dice che ho speso 2/3 della mia vita io a dire che 2/3 della mia vita in questo tipo di lavoro, ma proprio perché come neuropsichiatra infantile, ovviamente nessuno va dallo psichiatra infantile perché il figlio è il primo della classe, o se ci va perché il figlio della classe è perché c'ha altri problemi. Quasi sempre io mi sono occupata di bambini con disturbi dell'apprendimento, tant'è vero che anche adesso nel lavoro parlamentare ci sono tutta una serie di disegni di legge che io ho presentato sulle difficoltà dell'apprendimento dei bambini, quindi sono totalmente consapevole, non c'è nessuna cosa. Però sono anche consapevole che mentre va protetto quel bambino con la specificità dei suoi problemi, i ragazzi, per così dire, che costituiscono non la norma, la normalità, la media, questi ragazzi vanno esposti a quel rischio della valutazione comparativa che è la chiarezza, che è come dire: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Che è come dire: specchio, specchio delle mie brame, ma io la storia la so più di te o meno di te? La geografia la so più di te o meno di te? Ma io, se mi devo misurare, adesso io non so se tra di voi qui ci sono, potrebbero anche esserci, giovani professori universitari che in questi giorni sono stati sottoposti a quello che è stato il problema dei problemi del mondo universitario, che è l'abilitazione. Allora sapete perfettamente di che cosa parlo. Tutto il tema era se io stavo sopra la mediana o sotto la mediana, ma se il criterio della mediana era una mediana, era un criterio equo o non lo era. Cioè, noi abbiamo fatto, da un lato, l'ipertrofia della cultura della valutazione. Tutto deve essere misurabile e valutabile. Ogni valutazione deve essere oggettivabile con parametri sempre più precisi, sempre più articolati, sempre più analitici. Però questo non riguarda mai me, semmai riguarda lui. Semmai riguarda lei, perché se io sono sotto la mediana, il problema non è il mio, ragazzi, il problema è della mediana. È lei che si deve adattare al livello a cui io sto. Allora, questo è un problema complesso, che veramente abbiamo fatto studi, interrogazioni, cioè è complicato il problema. Però il tema vero è che ognuno di noi tende a sottrarsi alla valutazione. Ma se noi non aiutiamo i ragazzi a capire che la vita è tutto un esercizio di valutazione, e se il genitore si sostituisce all'oggettività della valutazione attraverso la soggettività delle categorie affettive, è dura che questo ragazzo possa crescere. È veramente dura che lui possa assumere la sfida della sua maturità, la sfida della sua adultità. Allora capite perché io sostengo che, per questo io dicevo che il titolo di questo incontro non può essere che è compito dei genitori progettare il futuro dei figli. È compito dei genitori e dei figli. Cioè è perlomeno una responsabilità profondamente condivisa. Ed è talmente tanto condivisa questa responsabilità che il maggiore esercizio che un genitore può fare e deve fare con il figlio è quello che potremmo chiamare il test di previsione. È come dire: tu sei libero di fare quello che vuoi, però devi soltanto sforzarti di immaginare e di oggettivare il più possibile le conseguenze di quello che stai facendo. Vi faccio un altro esempio. Non so se qui ci sono, stamattina c'erano ragazze che vogliono fare medicina. Sapete che scegliere di fare medicina è una cosa del tutto irrazionale. Uno vuole fare medicina perché, dicono, vuole aiutare gli altri. Dopodiché tu dici: scusa, ma gli avvocati, gli ingegneri, tutti questi invece gli altri li vogliono affogare, i professori, eccetera. Però chi vuole fare medicina e basta. Se non che c'è quella drammatica prova che si chiama test di ammissione.